Abbiamo qui con noi, è intervenuto per l'occasione, una dinastia qui a Bologna. Stiamo parlando di Fabbri, della Marena, che tutti conoscerete. Oggi si parla di sostenibilità e di territorio e di cultura, insomma tutte e tre cose che il vostro marchio trasmette. Ma guardi, siamo in un luogo che di questi elementi ne fa la caratteristica principale. Noi abbiamo accettato per mille motivi. Il primo è che Bologna è la nostra culla, è veramente il luogo in cui siamo nati e in cui abbiamo dedicato tutti i nostri le nostre generazioni, che sono cinque, alla guida dell'azienda. E siamo forse l'unica azienda di Bologna che porta proprio il nome della nostra città sull'elemento più importante e iconico, che è il nostro vaso della Marena. E questo nome l'abbiamo portato in tutto il mondo perché amiamo questa città profondamente. Questa occasione è veramente importante, ricca, preziosa, perché credo che Giovanni starà molto attento a proporre veramente un modo originale di conoscere la nostra città, vero, non mediato da necessità commerciali, ma originale e autentico. E quindi noi abbiamo voluto essere insieme a lui, abbiamo voluto dare il patrocinio a questa splendida iniziativa, anche portando qui e gireranno nel corso dei mesi elementi della nostra collezione d'arte, che vengono dal premio Faber per l'arte, che è stato creato nel 2005, anno del nostro centenario, e che oggi conta decine e decine di capolavori dei più grandi maestri italiani della scultura, della fotografia e ovviamente della pittura. Quindi abbiamo già qualche opera esposta, e quindi avremo anche questo luogo come omaggio all'arte dedicata a Bologna. Grazie. A voi.